Se vi racconto un po' quello che è successo ieri, diciamo anche sintetizzando brevemente qual è qui la questione, cioè abbiamo scoperto 2 anni fa che c'è un progetto ormai approvato da anni di costruire 63 box privati interrati qui su Via dei Noci. Questo vorrà dire che verranno abbattuti 7 platani che hanno più di 50 anni, sono gli ultimi grandi alberi rimasti a Centocelle. Diciamo verrà completamente ripensata questa piazza che potrebbe essere una piazza in una maniera che non sarà assolutamente risolutiva per i problemi del parcheggio, della vivibilità, ma esclusivamente per una logica, diciamo, che poi studiandoci il progetto, diciamo senza essere prevenuti, però studiandoci il progetto, vedendo come la cosa è puramente speculativa, come buona parte dei pensati sulla città di Roma. Quindi i motivi della nostra opposizione sono stati legati uno a proprio alla vivibilità della nostra strada, che vuol dire anche però proprio il benessere, la qualità della vita di chi vive qui, e anche una questione di principio, cioè non è più possibile continuare a vendere il territorio pubblico ai privati, continuare a costruire all'infinito, cioè le nostre città sono già colate di cemento. Ieri abbiamo incontrato, diciamo, come tutti sappiamo, c'è una nuova giunta qui in questo che ormai è, penso, la quinta città d'Italia, nel senso hanno accorpato il sesto e settimo municipio, adesso siamo 300.000 abitanti. Sì, forse anche qualcosa di più. Forse anche qualcosa di più, esatto. E poiché, diciamo, comunque chiaramente questa è una questione di una gestione del territorio, e quindi noi abbiamo avuto già nello scorso anno delle relazioni, degli incontri con il municipio e con il comune di Roma. Essendoci un nuovo municipio, abbiamo invitato qui l'assessore, in particolare assessore all'ambiente del quinto municipio, che è Giulia Pietroletti, per parlare della questione, diciamo in particolare ieri della questione degli alberi. Nel senso che uno dei cardini della nostra battaglia è di non far abbattere questi 7 platani, che sono proprio un pregio per questa strada, ma sono proprio una qualità della vita. Continuamente vediamo, insomma, avere gli alberi davanti casa, avere gli alberi nella città non è soltanto, è proprio un modo di vivere la città diverso, insomma, no? Rispetto a vivere nel puro cemento. Siamo riusciti attraverso, insomma, diciamo, sia all'incontro di ieri, ma avevamo attivato vari canali, a organizzare per giovedì prossimo un incontro in municipio dove incontreremo, diciamo, speriamo il presidente del municipio Gianmarco Palmieri, ma sicuramente il vicepresidente e l'assessore ai lavori pubblici, per rimettere sul piatto questa questione di questo PUP, nel senso che noi avevamo ottenuto dalla precedente giunta una mozione del municipio votata all'unanimità contro la concessione del permesso a costruire, però il municipio è cambiato e quindi praticamente ricominciamo da capo. Bisogna riavere la sicurezza anche per sì, questa. No, in realtà guardate, la questione è seria, nel senso questo progetto è approvato, cioè le pressioni che noi stiamo facendo, cioè, mobilitando continuamente, diciamo attacchinando, facendo feste in piazza, cercando in tutti i modi di sensibilizzare qui le persone che vivono su questo territorio, è perché in realtà questo progetto è approvato, cioè noi dobbiamo fare una pressione affinché il comune si decida proprio un'inversione di tendenza, e quindi anche ciò che in passato da giunte scellerate era stato approvato venga cancellato. Questo è un lavoro sul singolo territorio ed è un lavoro fatto anche a livello cittadino da tanti comitati, nel senso che è proprio chiedere un'inversione di tendenza sulla gestione del territorio e anche una maggiore attenzione insomma, ad una relazione con chi vive sui territori, no? Nel senso che non è che tutto può essere sempre calato dall'alto, non è possibile che da un giorno all'altro qui venga aperto un cantiere che durerà plausibilmente 5-10 anni per un'opera che nessuno ha chiesto e che non si sa a chi sarà funzionale, perché insomma questi box privati costano 45.000 euro l'uno, 2 strade più in là ne hanno fatto un altro, sono ancora invenduti, ma ovviamente la conosciamo tutti la situazione sì, in generale, no? Io ti ringrazio per aver accennato all'inizio il fatto che noi non ci siamo limitati, diciamo, a fare un'opposizione a questo PUP, perché poi, diciamo, appunto, pensando che comunque diciamo, mettendo insieme tante teste che vivono su questo territorio, abbiamo pensato che in fondo non vogliamo il PUP, non ci piace neanche come è adesso la nostra strada, inteso proprio lo spazio che tutti i giorni attraversiamo, non è questione di nostro, tuo, mio. E quindi abbiamo anche fatto insieme a un architetto un progetto per pensare a una riqualificazione di questa piazza, che oltretutto, se insomma, in realtà, perché diciamo non costerebbe neanche così tanto realizzarlo, perché poi ci viene sempre opposto a tutti la questione che mancano i fondi, ma organizzare diversamente degli spazi non è una questione che chissà economicamente quanto impatta, è semplicemente proprio un volersi porre in una maniera, cioè rimettere al centro alcune cose piuttosto che altre nello spazio condiviso, diciamo, nello spazio urbano. Diciamo che quindi levando soldi alla speculazione, poi per forza di cose gli interessi si abbassano, per cui magari uno, esatto, tira fuori un progetto da poche decine di migliaia di euro e ti si oppone il fatto che costa. Di solito, esatto, funziona così. Mettendo al centro il fatto che a noi piacerebbe avere uno spazio in cui possiamo incontrarci, in cui si dice sempre far giocare i bambini, ma non è solo far giocare i bambini, è far stare bene anche gli adulti, poter fare due chiacchiere invece che fra le macchine. Sono chiaramente piccole cose, perché in questo momento le persone lottano per sopravvivere, ci sono tante battaglie anche forse più pressanti, però diciamo è sicuramente fa parte poi di come noi possiamo vivere bene e migliorare la nostra qualità della vita, anche poter scendere. Io il vicino del palazzo di fronte non lo conosco, perché non saprei neanche dove farci due chiacchiere se non in mezzo al parcheggio, insomma. Certo. Senti, poi un'altra cosa, diciamo, importante da sottolineare è che è una battaglia quella vostra che è partita da Via dei Noci, però nei mesi, negli anni precedenti, visto che va avanti già da un po' di tempo, è riuscita a collegarsi anche a tante altre battaglie simili in giro per la città, perché poi sappiamo bene, sai meglio di me, che la questione del PUP è una questione milionaria ed è in ambito cittadino, insomma, sono tanti soldi che vanno ad agire un po' dappertutto. Eh sì, diciamo, in questo momento sul territorio di Roma ci sono decine, forse una quarantina di comitati che operano, che appunto si oppongono alla realizzazione di questi PUP. Il tentativo è quello di mantenere un coordinamento fra tutti, diciamo, in questo momento oltretutto il coordinamento si è ravvivato, anche perché è girata un documento che non si capisce quanto sia ufficiale da parte della Giunta Marino, in cui praticamente si dice che il piano urbano parcheggi verrà proseguito esattamente come era stato fatto negli anni scorsi, mentre come tutti sappiamo, prima delle elezioni erano state fatte grandi promesse di inversione di tendenza sulla gestione del territorio urbano. Quindi sì, il tentativo è di non fare, diciamo, ogni battaglia singola, ma appunto collegarle fra loro, perché il concetto è non si salvi chi può, ma pensiamo la città in una maniera differente. E poi qui in realtà in alcune occasioni il comitato No PUP, ma tutti questi comitati si collegano poi anche ad altre battaglie che ci sono sui territori, perché poi alla fine non è che sia la battaglia per il contro il PUP è disgiunta la battaglia contro le antenne che inquinano con i campi elettromagnetici, cioè sono una parte della cittadinanza che cerca di riprendere parola su quello che è poi la propria qualità della vita. Ieri è stato molto partecipato l'incontro, mi è venuta in mente questa cosa delle onde e delle antenne, perché ieri l'incontro è stato molto partecipato, c'era tanta gente qui della via di Centocelle, e giustamente poi ognuno di fronte all'assessore ha voluto portare anche delle istanze, no? Allora c'è stata una persona che ha detto: scusate, mi sono accorto, hanno messo un'altra antenna qui, com'è possibile? Cioè, non c'è controllo su questa cosa. Immaginiamo. E quindi l'appuntamento è per giovedì prossimo, in cui andremo in municipio è un incontro aperto, insomma, nel senso andremo più numerosi possibile, anche se chiaramente gli impegni di tutti sono tanti, per rimettere un punto su questa cosa, insomma, per costringere quanto nelle nostre possibilità l'amministrazione locale a prendere una posizione che per noi è importante. Va bene, quindi insomma l'appuntamento è per giovedì, è un incontro pubblico, ci dicevi, quindi chi vuole può partecipare. Sì, ecco. Penso di sì, nel senso che poi alla fine è chiaro, sono sempre quelle cose dentro i municipi, la stanzetta, no? Lo sappiamo, però noi pensiamo anche che poi se c'è qualcuno interessato noi andremo, se siamo tanti si farà in modo di ascoltare in tanti. Va benissimo. Poi oltretutto, insomma, sul territorio dove abiti ci sono tante iniziative di questo genere, a volte anche per diciamo progetti e possibilità speculative molto più ampie. Una per tutte, penso a quella dell'ex mattatoio sulla via Palmiro Togliatti, che insomma è un affare lì, stiamo parlando di miliardi, forse non milioni, per cui che insomma nascano e crescano iniziative come quella di Via dei Noci è assolutamente positivo e da salutare con favore. Va bene, direi di riaggiornarci a questo punto, se l'incontro è giovedì, a venerdì prossimo vedremo un po' che si dice nelle stanze del municipio e poi cercheremo di fare un po' il punto anche fra noi. Va bene, grazie dello spazio. Va benissimo, un abbraccio, a presto, ciao ciao.